Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Mi ricordo della notte in cui è salita in macchina senza un motivo, ubriaca e profumata. E quasi senza parole ci siamo ritrovati uno sulla bocca dell'altro. Sembrano passate vite intere, invece sono soltanto la sua e la mia. Sono Riccardo, vivo a Milano, ho 37 anni, giro un po' il mondo per lavoro e scrivo per riempire il tempo. Chi l'avrebbe detto che anche alla mia età ci fosse un po' da ridere? Non l'avrei mai detto che a metà di un libro si potesse chiudere. Oggi cosa resta se l'amore non si fa più sulle nuvole? Chi non muore si ripete, chi non vuole non si vede più. Non mi sono rassegnato affatto, come invece hai fatto tu. Sono le 16:10 minuti in punto, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia, il programma è sempre Voi siete qui e oggi in diretta con noi abbiamo Dente dal vivo. Ciao, buongiorno Giuseppe. Ciao, buongiorno. Sapete che tutti i mercoledì, o meglio, un mercoledì del mese, tutti i mercoledì sarebbe un po' troppo, ogni mercoledì del mese noi facciamo da gennaio un live, abbiamo un ospite che canta e suona dal vivo qui a Voi siete qui. Questo è l'ultimo mercoledì di questa stagione, perché a giugno, perché non la facciamo, Tiziano? Beh, perché giugno è già sono finite le scuole, perché ci abbiamo un live, giusto? Quindi quello di oggi è l'ultimo live insieme a Dente, che ci racconta e ci canta un pochettino di Almanacco del giorno prima, che è l'ultimo disco, che è uscito? È uscito a gennaio. Prima non eri preparatissimo sulla data di uscita del disco, è uscito agli inizi di gennaio. Sì. Giuseppe, tu rappresenti un pochettino, diciamo, la punta di diamante di una certa categoria di cantanti, passami il termine, punta di diamante. Te la passo. Che fa musica che viene definita indipendente, più o meno, anche se capire il significato poi di questa parola è un po' difficile. È piuttosto difficile. Sostanzialmente sei uno scrittore di parole fighe messe insieme una dopo l'altra con della bella musica intorno. Sì, diciamo che faccio musica italiana. Perfetto. Secondo me. Perché mettere queste cose qua, indipendente, indie, alternativo, strano, poi risulta veramente strano, difficile, complicato, non lo ascolto. Ok, benissimo. Invece io faccio la musica italiana, insomma. E tra l'altro poi quello che fai è raccontare delle storie nelle tue canzoni, forse in un modo piuttosto lineare anche, no? Rispetto a canzoni che di solito sono, diciamo, hanno una forte componente ritmica o più, diciamo, musica musicalmente dirette. Tu proprio racconti delle piccole storie sì, a volte di vita quotidiana. Racconto delle piccole storie, a volte racconto stati d'animo, cerco di esprimere degli stati d'animo che sono difficili da spiegare. Comunque scrivo fondamentalmente di cose che mi riguardano molto personalmente, molto intimamente. Prima, tra l'altro, fuori onda, prima di cominciare la diretta, Dente mi raccontava che diceva: boh, probabilmente scrivo delle cose, ho una vita molto banale, perché mi capita spesso di vedere persone che vengono a trovarmi durante i concerti o anche per strada e mi dicono: quella canzone tu l'hai scritta per me, vero? Certo. Potrei rispondere sì sì. Come succede che delle persone, tu mi dicevi, sono proprio convinte che ci sia una sorta di legame astrale tra, o non so di che tipo, tra te e loro, che ha fatto sì che tu scrivessi non la tua storia o una storia o una canzone, ma la loro storia, la, certo, loro canzone? Certo. Come... Ma perché la follia è sempre dietro l'angolo, quindi insomma la gente... A me comunque risulta ancora abbastanza strano quando la gente mi dice: questa canzone sembra che tu l'abbia scritta per me, piuttosto che l'hai scritta per me, convinti, piuttosto che comunque la gente si riveda in queste cose, perché come dicevo prima, essendo molto personali e molto private... anche se poi sono pubbliche, le rendo pubbliche, però mi fa molto strano e mi fa a volte sorridere, a volte un po' inquietare questa cosa, e a volte mi fa sorridere quando la gente interpreta le mie canzoni in una maniera completamente diversa dalla realtà, no? Che però ci sta, nel senso, mi piace anche che sia così, non è che uno deve per forza capire cosa l'autore voleva. La cosa che mi faceva arriva arrabbiare come arriva, a scuola, è l'autore, cosa voleva dirci l'autore con questa poesia. Okay, quello che arriva arriva, evidentemente. Le 16:14 minuti, questa è sempre Radio 24, siamo in diretta con Dente che ci suona tre pezzi dal vivo come facciamo di solito al mercoledì, però continuiamo a raccontare anche una storia che in questo caso è la storia di Riccardo e comincia diciamo, prima di cominciare con la storia, noi oggi cercheremo di sfatare un mito, che il primo è che le storie d'amore che finiscono sono tristi. Questo è il primo, questo riguarda me, non ti preoccupare. Invece il secondo mito che cerchiamo di sfatare è che la musica di Dente sia malinconica. Oggi proprio noi abbiamo deciso così. Non puoi andare contro la natura. La natura delle cose. 349-238-6666. Questa che stiamo per raccontare è la storia di Riccardo. Maggio, uno di quelli già caldi e troppo corti. Lei è stesa a letto nell'altra stanza, mentre io annuso finalmente la solitudine, quell'angolo di tempo tutto mio che ho perso da quando viviamo insieme, da quando ho cambiato lavoro, da quando mia madre non c'è più, e troppe mani si fermano a darmi finte pacche sulle spalle. Stasera non ci siamo quasi salutati e non so smettere di chiedermi che cosa stia succedendo. Facciamo poco l'amore contro voglia, quasi fosse un gesto indispensabile quanto preparare la cena, quando mangiare è solo per sopravvivere. È maggio, siamo io e lei, sono un po' di mesi che la cosa non va, che la storia non va, quindi una sera uno dei due, in questo caso io, prende il coraggio e decide di dare una svolta che ovviamente non è positiva. Eppure, nel nostro silenzio, io mi ricordo di noi. Mi ricordo della notte in cui è salita in macchina senza un motivo, ubriaca e profumata. Quasi senza parole ci siamo ritrovati uno sulla bocca dell'altro. Sembrano passate vite intere e invece sono soltanto la sua e la mia. Due vite fresche e sorridenti che camminavano davvero sempre parallele. Avete presente quelle storie che tutti invidiano? Perché in mezzo alla folla, a distanza di decine di persone, sai sempre quando l'altra parte di te ti sta guardando. Di quelle che quando incroci il suo sguardo, sai già cosa sta pensando. Quando tutto collima, quando non devi lottare, faticare, urlare e litigare, pretendere e rinunciare, quando gli amici a cena vi guardano e invidiano il senso di casa che voi trasmettete. No, non esistono quelle storie. Credevo non esistessero affatto, anche mentre ne stavo vivendo una. E adesso invece che è maggio e noi abbiamo così tante primavere insieme da riderci sopra, quando proviamo a contarle senza riuscirci, ecco, ora c'è silenzio. Mi osservo mentre mi alzo e apro la porta della stanza da letto. Sento la mia voce dirle che sono stanco, che non ha senso andare avanti così. Sento il sapore aspro delle mie parole che la buttano giù dal letto, le offrono una sigaretta perché so che le servirà, e la fanno sedere sul divano. Escono da sole le parole oggi. Mi ascolto mentre vomito la tensione degli ultimi 6 mesi e le dico che non siamo più gli stessi, che non siamo più innamorati. E non sento paura, nemmeno quando vedo la sua testa annuire. Mi sento vincitore, come stessi scrollandomi di dosso un carico che non mi lascia più volare. Determinato e categorico, non c'è spazio per tornare indietro. È il capolinea e a noi non resta che scendere. Lei piangerà per 3 giorni e per 3 giorni io dominerò l'istinto con cui ho sempre cercato di proteggere il suo sorriso. Capolinea. Il resto è una piccola catena di frasi smozzicate e buttate lì a riempire i silenzi, tipo una pausa, beh, servirebbe. Va bene, dai, cerco casa. No, la cerco io. L'ho trovata, sei sicuro? Sì. Ti lascio quel libro? No, l'hai comprato tu. Tienilo tu quel quadro, ma è New York, l'hai fatto tu, appunto. Sei sicuro? Sì. Ho raccolto quasi tutto. Sei sicura? Sì. Ciao. Una storia di 12 anni è una di quelle che pensi non finiscano. Sembra la storia con la L e con la S maiuscole. È aprile ora, un aprile amaro e ancora freddo, ed è l'anno sbagliato. Tutto quanto è venuto dopo quel maggio, è stato sbagliato. Oggi io non ho più le unghie, le ho consumate tutte fra i denti, ripensando alla certezza del cuore che credeva di aver capito, e invece si sbagliava. Sembra una vita fa, ma anche lo scorso maggio la vita sembrava una vita prima. Oggi niente è cambiato se non le mie unghie. Continuo a torturarle pensando a quella notte e al freddo dentro di me, nei miei occhi e nella mia voce. E penso che se solo fossi andato a dormire in quella stupida notte di maggio, oggi avrei ancora le mie unghie e lei. ma c'è chi invece di giocare sogna. Così che quando cade guarda in su, e poi c'è chi si accontenta. 349-238-6666, finiscono così i pezzi di Dente, quindi tu ti trovi un pochettino a bocca aperta. Sono le 16.21 in punto, questa è Radio 24 e noi stiamo raccontando e cantando insieme a Dente dal vivo. Prima mi suggeriva giustamente la regia che i tuoi pezzi hanno la musica che va in una direzione e le parole che vanno in un'altra, che poi tra l'altro questa è una caratteristica del pop in realtà, no? Raccontare anche cose sì. che possono sembrare ed essere malinconiche, però invece avere un ritmo, i Rem lo facevano certo, ad esempio. Certo. Grandi maestri di questa cosa tantissimo, no? Per sì. cui da una parte è una giornata orribile, ma sembrava fosse la giornata. Un altro grande maestro era Battiato su questa cosa, che raccontava di cose assurde con una musica super pop che la gente non ci capiva niente, comunque le cantava, però rimaneva in testa. Sì. era perché quando faceva quelle cose là, quando degli anni 80, dico, sto parlando di quelle cose. Adesso non fa più le cose degli anni 80, ne fa delle altre, sempre belle ma diverse. Direttamente da Fidenza, Giuseppe Peveri, in arte Dente, sei venuto via da Fidenza quanti anni fa? 9 anni fa. Quando ti chiedevo prima che cosa c'è a Fidenza, Dente mi ha risposto una città. Che obiettivamente è. No, perché tu mi hai chiesto, mi hai fatto un'altra domanda, hai detto cosa c'è a Fidenza oltre Fidenza Village? Giusto. C'è una città. È vero, perché ti rimane impressa quella roba lì quando passi dall'autostrada. Sì, perché è sull'autostrada. Fidenza non è sull'autostrada e non ti rimane impressa. E quindi cosa c'è oltre al Fidenza Village? Una città. Se c'è qualcuno di Fidenza che vuole raccontarci cosa c'è oltre al Fidenza Village, 349-238-6666. E sei venuto a Milano 9 anni fa per fare questo, giusto? Per venire in radio da te. No, ho aspettato 9 anni finalmente. Quando ancora non sapevo cosa fosse la radio io, tra l'altro. Sono venuto per fare una scuola di grafica. Ok. E perché volevo dare una svolta positiva alla mia vita, che non mi piaceva tanto, perché facevo mestieri qualsiasi che non mi piacevano comunque. Non è tanto il fatto che fossero qualsiasi, che non mi piacevano. E quindi ho visto questo corso di grafica che potevo fare ancora per poco tempo, fino a 30 anni si poteva fare. E tu ne avevi? Io ne avevo 29, ho detto lo faccio adesso, non lo faccio più, e l'ho fatto. E quindi sono venuto qua, in realtà poi non ho fatto il grafico, fortunatamente per la gente che deve vedere le cose, perché ho scoperto anche di non essere proprio un grandissimo grafico, e è andato in un'altra direzione. Che comunque... Com'è che ha preso quella direzione lì? Tu già suonavi, come si comincia? Si comincia a suonare nei locali e poi c'è il tipo, è vero che c'è la figura del discografico che, ehi ragazzo, tu farai strada, lo dico anche per la discografica che è in studio con noi dall'altra parte del vetro, cioè come funziona davvero? Ma a me ha funzionato in una maniera abbastanza particolare, quasi favolesca, diciamo così, o favolosa, come vuoi. Okay. E io suonavo, facevo concertini quando ero qua a Milano, già ne facevo un po', ne avevo fatti credo due o tre, okay, tutta la vita, da solo, prima ero chitarrista in un altro gruppo, comunque da solo con le mie canzoni avevo fatto 2 o 3 concerti, e è successo che un giorno in un locale di Fidenza, che si chiamava Joyce, che non c'è più, mi hanno chiamato per tappare un buco, perché c'era un gruppo che si era fatto male la gamba, il batterista, una cosa del genere, non mi ricordo. Mi ha detto, dai vieni ti prego, che io sto facendo lo stage di grafico qua a Milano. Ho detto vabbè dai, vengo giù, e sono andato là, ho fatto questo concerto e mi ha visto un discografico. Ma quindi funziona, e mi ha fatto così fare un disco. Ma quindi funziona davvero così? 349-238-6666, dicono c'è l'ospedale a Fidenza, mi scrivono ad esempio. Beh sì, ho conosciuto Gene Gnocchi a Fidenza. Sì, e dice, c'è anche lui. Dovresti essere orgogliosi di avere Gene Gnocchi, scrive Alberta da Treviso. E a un certo punto, volevo arrivare qua, entra nella vita di uno che fa quello che fai tu, entra il pubblico, nel senso sì, che ti trovi a salire su un palco, sì, e ad avere delle persone che ti seguono, che comprano i tuoi dischi, che ti riconoscono per strada. Prima guardavo banalmente, non è che valgano moltissimo il numero dei social network, no, però il tuo profilo Facebook ufficiale ha 78.000 like, 74.000, insomma, che vuol dire che c'è un seguito, cioè la gente ha voglia di sapere che cosa fai. Ecco, gente curiosa. Prima mi raccontavi di un episodio, no, di come in realtà poi la vita cambi, da alle 16 presenti un disco alla Feltrinelli e c'è un sacco di gente, no? Dicevi, cioè, fai 1 ora e mezza per firmare i dischi, poi esci, prendi la metropolitana, vai a casa e nel silenzio sul tuo divano, che non hai, c'è questo grande senso di tristezza che ti pervade, giusto per sfatare il mito che sono triste. Esatto. Ed è una cosa abbastanza strana, questo forse si può chiamare depressione post-concerto, sì. Ed effettivamente io sono stato un po' colto ogni tanto da questa cosa, perché appunto passi da un momento dove tutti ti vogliono, tutti ti cercano, tu sei il centro, comunque il fulcro di tutta quella situazione lì, a diventare il centro, il fulcro di te stesso in una stanza vuota, ed è molto triste questa cosa, giusto per allegare un po' il pubblico che questo scusa. Però questo in realtà lo dicevamo perché giustamente Dente prima di andare in onda mi diceva probabilmente questo è il motivo per cui le persone come Vasco Rossi o Bruce Springsteen, a meno che il loro fisico li molli, non smetteranno mai di fare quel mestiere lì. Credo che sia impossibile smettere di fare un concerto in uno stadio. Quando tu, io poi insomma ho dei numeri molto minori ovviamente, però se comincio a sentirla un po' io, immagino loro che comunque certo, dici in proporzione stadio, in proporzione avere davanti uno stadio in delirio magari anche per 5-6 serate di fila, lo stesso fare insomma tantissima gente che è lì delirante per te, non riesci credo a smettere di fare quella cosa. 349-238-6666, di nuovo gente che scrive di Gene Gnocchi, niente Fidenza. Tu e Gene, ma infatti lo scopo principale della mia vita è sorpassare Gene Gnocchi come famosità di Fidenza. Dente, al Manaco del giorno prima abbiamo l'ultimo pezzo prima di chiudere oggi, che si intitola, Giuseppe? Si intitola Remedios Maria. Voilà. Maria Maddalena, facciamoci le promesse, scendiamo dall'altalena e in culo le scommesse. Dente dal vivo al Manaco del giorno prima, chiudiamo ricordando le prossime date dove possiamo sentirti. Non lo so. Andate a cercarlo sul suo profilo Facebook, che è ovviamente Dente su Facebook. Mi scrivono che a Fidenza c'è un campo macerie per addestramento cani da catastrofe. Boia. Comunque è qualcosa. E invece scrive un collega che è il figlio di Pierangelo Bertoli, Alberto Bertoli, che ti fa i complimenti e dice: qualcuno dice che hai rifiutato di tentare di andare a Sanremo. Se è vero, perché? È vero perché. Grazie a tutti, grazie ancora a Dente. Io ringrazio soprattutto Riccardo, perché la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Mi chiamo Marcella, vivo a Milano. La storia di domani è la mia e parla di che cosa può succedere ad un semaforo rosso. Questa è la mia storia e io sono qui.